qua. Mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Two, two, two, two, hey, hey. Something, something, something, something. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two, mic. Microphone check, check, one, two. Sound check, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Eccoci pronti dal Groovemaster Studio per dare il via a questo appuntamento, devo dire molto ben organizzato, del soundcheck, il suono della musica, la prova del suono di Radio 24. Buonasera da Gigi Telesforo e buonasera a Silvia Barba e Francesco Tromba. Buonasera a te, buonasera a tutti. Siete Ciao. Operativi? Siete operativi? Operativi. Siete preparati? Sì. No, perché la puntata di oggi, per quanto piacevole, potrebbe anche avere le sue complicazioni, perché andiamo a trattare un argomento che non è soltanto musicale. Sì, perché oggi vogliamo sfogare la nostra passione per il gospel, e quando si parla di musica gospel, naturalmente non si può non parlare della Chiesa Battista e la Chiesa Evangelica, perché è lì che si è formato questo genere di musica che ha formato intere generazioni di musicisti, oltre che di credenti. Sì, noi seguiamo le vicende della musica contemporanea, siamo molto attenti al passato, non lo dimentichiamo, perché siamo proiettati nel futuro, e senz'altro la musica gospel ha formato alcuni fra i musicisti che hanno fatto la storia della musica, grandi artisti, sta formando i musicisti contemporanei, e naturalmente ci sarà anche un'evoluzione, perché non so se avete notato, miei cari amici, ma ci sono vari generi di gospel, praticamente c'è gospel di tutti i tipi, c'è il jazz gospel, il gospel soul, anche fino al rock gospel e il punk gospel, avete notato? Ci sono tutti questi stili e questi generi, ma oggi parliamo del gospel che a noi piace. E intanto, Silvia, se ti va, vorrei che tu ci raccontassi un po' qual è la differenza fra la Chiesa Battista e quella evangelica. Allora, sono tutte e due figlie della riforma luterana. Mentre la Chiesa Evangelica è un termine, si usa Chiesa Evangelica come termine generico per indicare il riconoscimento esclusivo dell'autorità della Bibbia, quindi sì, del Vangelo e soprattutto del Nuovo Testamento, la Chiesa Battista invece riconosce appunto nel battesimo come principio fondante, appunto come sacramento fondante di questa comunità. In realtà, se la Chiesa Evangelica ha un'origine particolare e appunto della Riforma, la Chiesa Battista, le varie sfaccettature della Chiesa Battista sono molto eterogenee. È difficile classificare la Chiesa Battista come un unicum di una dottrina che è sempre quella. All'interno della stessa comunità battista esistono differenze enormi. Parlando con un battista che frequenta la Chiesa Battista a Roma, mi ha detto per esempio che sono alcuni pastori, e quindi di conseguenza la comunità che li segue, sono molto rigidi riguardo, non so, argomenti come l'omosessualità, mentre altri sono molto più aperti e accettano qualsiasi tipo di differenza etnica, sociale, sessuale, eccetera. Quindi c'è un movimento più eterogeneo all'interno della Chiesa Battista. Battisti famosi, ne nomino alcuni, tipo Aretha Franklin, Martin Luther King e Barack Obama. Se pensiamo a Aretha Franklin e non so, Martin Luther King, le differenze anche da un punto di vista sociologico e culturale ce ne sono, e come. Fatto sta che, tornando alla musica, Francesco, il gospel è fondamentale. Mi dicevi a microfoni spenti che lo consideri un po' come frequentare la scuola elementare. Sì, è il punto di partenza di ognuno, praticamente, di ogni artista che poi si esprime su quei canoni. Da lì parte, in un certo senso si avvicinano per la prima volta alla musica da ragazzi, da quando sono piccoli, già 5-6 anni, iniziano ad entrare nei cori, e da lì si crea anche poi tutto il senso di comunità, in base appunto al quartiere di cui si fa parte, alla chiesa di cui si fa parte. Fondamentale è la figura del pastore, come diceva Silvia, che nel nostro caso diventa Master Sermonis. Adesso anche negli spettacoli contemporanei negli Stati Uniti, quando c'è la figura del presentatore, che sia il presentatore della TV o di un grande spettacolo, viene definito MC. Where the MC? Who's the MC? È proprio il Master Sermonis, e quindi è un termine, una terminologia che viene proprio dalla Chiesa e dalla Chiesa del Gospel. Direi di partire con la musica e di partire con The Genius in persona, con Ray Charles, perché se prima di Ray Charles, dell'avvento di Ray Charles, la musica tipica della Chiesa Battista Evangelica, quindi il gospel, rimaneva chiusa fra le pareti della Chiesa, ma poi Ray Charles ebbe un'intuizione, cioè quella di utilizzare le strutture ritmiche e armoniche del gospel per cantare testi sicuramente laici, e questa cosa viene anche raccontata nel famoso film intitolato Ray, che consiglio a tutti voi di vedere. Quindi diamo il via proprio alla puntata di quest'oggi dedicata al gospel contemporaneo, ma non solo, con Ray Charles in un classico del suo repertorio intitolato Hallelujah, I Love Her So. Questo è il soundcheck di Radio 24. Il soundcheck di oggi è dedicato al gospel e non potevamo non iniziare con The Genius Ray Charles, che ebbe un bel po' di problemi allora, sì, perché utilizzava la forma e la struttura armonica di composizione tipiche della Chiesa e quindi del gospel per cantare testi che invece parlavano d'amore, se non di sesso in maniera velata allora, e quindi questa cosa gli creò alcuni problemi. Sì, infatti non lo troviamo assolutamente nella Gospel Hall of Fame, perché lui si concentrava più sui temi, diciamo, pagani, della carne anche possiamo dire, rispetto ai temi evangelici che erano quelli classici e riconosciuti del gospel. Ecco, non troveremo nella Gospel Hall of Fame Chance the Rapper, però perché passiamo da Ray Charles a Chance the Rapper? Perché Chance the Rapper, che è uno dei nostri preferiti e noi lo teniamo d'occhio in questo periodo, anche lui utilizza strutture ritmiche e armoniche tipiche del gospel, e in questa composizione che io trovo molto divertente, molto carina, solare al tempo stesso, intitolata Sunday Candy, qui Chance the Rapper con Donny Trumpet and Social Experience e la partecipazione di Jamila Hoods, che ha proprio la vocalità tipica del gospel, racconta una storia d'amore che nasce proprio in chiesa. Questo è il soundcheck. She can say in her voice, in her way, that she love me. With her eyes, with her smile, with her belt, with her hands, with her money. Soundcheck, il suono della musica. Eh sì, vi stavamo dicendo di Chance the Rapper, che anche lui è un devoto, sicuramente frequenta la chiesa e lo si sente anche dal tipo di rap che propone, che è abbastanza gioioso, solare, positivo. Qui Chance the Rapper si lascia andare proprio con dei campioni del gospel come Reverendo Kirk Franklin, che è uno dei miei preferiti, forse il mio preferito, perché a parte che musicalmente è preparatissimo, ma nella musica che propone c'è sempre una varietà impressionante di trovate, di arrangiamenti. Allora, Chance the Rapper con Finish Line Drone, la partecipazione di T-Pain, Kirk Franklin, Erin Allen Kane e No One, in un brano che considero quasi un piccolo capolavoro contemporaneo nell'arrangiamento, nella forma e nella struttura. Questo è il soundcheck di Radio 24, Francesco Tromba e Silvia Barba molto concentrati sulla puntata di quest'oggi, è interessante credo. Sì, io ti volevo dire una cosa su Chance the Rapper. Secondo me ha fatto in un certo senso quello che hanno fatto i Public Enemy precedentemente con il sound di James Brown, cioè dove sono partiti dal sound di James Brown, facendo comunque poi del rap. Invece quello che fa Chance the Rapper è avere sempre sullo sfondo una sonorità molto gospel, o che comunque parte da quella tradizione, e poi la fa evolvere a seconda dei brani nell'hip hop, nel rap, anche nel soul. Beh, tra l'altro, avere a che fare con Kirk Franklin, che è stato il primo ad introdurre degli elementi hip hop all'interno della musica gospel. Lui dal 1991, che con la sua The Family ha vinto non so quanti Grammy, ormai non si contano più nel gospel contemporaneo, nella potremmo musica... dire ogni botta una tacca. No, ogni disco che fa è vero. Fa bottino, proprio perché ha introdotto degli elementi innovativi all'interno di quella tradizione lì. Se appunto Ray Charles aveva introdotto dei temi laici assolutamente fuori dai salmi della musica gospel, Kirk Franklin, attraverso anche la sua esperienza di bravo ragazzo fino ad una certa età, e poi a 15 anni ha avuto un po' dei piccoli problemi. Beh, non dimentichiamo che è il reverendo Kirk Franklin, reverendo, quindi lui è proprio reverendo. Un pastore a tutti gli effetti, è un MC molto seguito, ha proprio seguaci, e ha anche un sito di riferimento dove c'è un merchandising spaventoso creato da Kirk Franklin con magliette dedicate a Gesù. Kirk Franklin è un eccellente musicista, incredibile producer, abbandonato dalla mamma, svezzato da una zia. Parente, e questa cosa viene anche raccontata in un disco dal vivo, cioè lo spettacolo iniziava proprio con questo cortometraggio che raccontava l'inizio della carriera di Kirk Franklin. Ne ha passate comunque di tutti i colori, fatto sta che la musica, la chiesa e il gospel lo hanno salvato, sono stati la sua salvezza. Kirk Franklin è tornato quest'anno con Losing My Religion, è il brano, tanto per presentarvi un altro capolavoro di questo eccellente musicista, si intitola Road Trip. Soundcheck. Il suono della musica. Appena acquistato Losing My Religion di Kirk Franklin, credo di aver ascoltato questo brano intitolato When almeno una decina di volte, per capire il senso, per capire quanta passione ci mette Kirk Franklin nella scrittura e negli arrangiamenti delle sue composizioni. Per cantare poi una composizione così complessa non poteva che convocare in studio di registrazione due fra le voci più importanti della black music di oggi, quella tipicamente gospel di Kim Burrell e Lala Hathaway, figlia di Donnie Hathaway, che dal papà ha ereditato non solo la passione per la musica ma anche questa vena soul che Kirk Franklin non si è lasciato sfuggire ancora una volta. Credo che Lala Hathaway sia devota e che frequenti quasi tutte le domeniche il gospel, perché più volte si è cimentata in repertori anche laici ma molto vicini alle tematiche della Chiesa Battista o evangelica, questo non lo so. Lala Hathaway e Kim Burrell, protagoniste con Kirk Franklin del soundcheck di Radio 24, ma Kim Burrell ha questa voce anche perché deve esprimere che cosa, mia cara Silvia? Nel 2010 lei ha fondato una sua chiesa. Quindi, addirittura? Sì, sì, nel 2010 si chiama The Love and Liberty Fellowship Pentecostal Overcoming Holy Mamma Church. Mamma mia, un nome che è un programma. A ricordarlo è difficilissimo. Però insomma mi piace pensare che The Love and Liberty sia un bel messaggio da dare. E tra l'altro lei serve la messa, ovvero è un MC. È un pastore, esatto. She's the MC. Te la immagini? Che mamma bella. Mia, vorrei essere una delle sue pecorelle. senz'altro, ma puoi immaginare una messa cantata da Kim Burrell? No, deve essere bene. Un'esperienza molto bella. Torni a casa con le lacrime e il sorriso. Ecco, questo è una cosa, l'effetto che fa il gospel. È vero. Che ti commuovi con il sorriso. Ti commuovi, ti abbracci, c'è veramente senso della comunità. È vero che i bianchi li mettono al piano superiore delle chiese battiste. Io ho assistito varie volte ad Harlem e ti fanno salire e non ti fanno stare, diciamo, nella platea vicino al coro. Però è un'esperienza bella perché ti senti parte anche un po' tu di quella comunità. Sì, la cosa anche interessante è che il repertorio tipico della Chiesa Gospel si aggiorna anche per merito di artisti contemporanei. Per esempio c'è questa composizione splendida scritta ormai negli anni 70 da Donny Hathaway, papà di Lala Hathaway, intitolata Someday We'll All Be Free, che è diventata, come Lean on Me di Bill Withers, un brano proprio integrante del repertorio del gospel. Sì, leggevo un'intervista in realtà in cui Lala Hathaway raccontava che non fa abbastanza per la sua voce. Gli amici dei Take Six le hanno dato degli esercizi da fare per riscaldare la voce. Addirittura mi sì. Sembra che qui però ci sia una bella lotta. Allora, ascoltiamo Someday We'll All Be Free di Donny Hathaway nella versione di Lala Hathaway e dei Take Six per la produzione di Marcus Miller. Poi facciamo una pausa e torniamo dopo l'informazione di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Puntualissimi dopo l'informazione di Radio 24, di nuovo in contatto con il Groove Master Studio per questo appuntamento del soundcheck dedicato al gospel. Mi ha fatto ridere Francesco, ci ho pensato a questa cosa che hai raccontato, che i Take Six hanno consigliato dei vocalizzi alla Lala Hathaway per scaldare la voce prima delle performance. Sì, perché lei comunque ha ammesso di non fare abbastanza esercizi per la sua voce. Non ne ha bisogno, poi meno comunque male. Considerando anche che sta spesso in tour, immagino che la stressi anche particolarmente la ma guarda volta. Questa è una cosa che io ho notato anche Didi Bridgewater, che è una mia amica. Io più volte ho chiacchierato con Didi Bridgewater fino a un attimo prima che lei salisse sul palcoscenico. Io le ho chiesto: ma non ti scaldi neanche la voce? Ha detto: mi è calda da parecchio tempo. Ma mi ha risposto Didi. Va bene, hai ragione. Allora, parlavamo di Take Six e di Lala Hathaway. Vogliamo continuare la nostra interessante puntata sul gospel e sul gospel contemporaneo. E infatti devo dire che i Take Six hanno un grandissimo merito, quello di aver riportato i riflettori sulla musica gospel quando pubblicarono il loro primo album. Veramente dei ragazzi casa, chiesa, musica e strumenti. E si sono conosciuti per merito della chiesa che frequentavano musicisti tutti quanti, quindi non solo dei grandi vocalist, ma se sono dei grandi vocalist è perché sono anche dei grandi musicisti, quindi tutti suonano uno, due strumenti. E quando pubblicarono il loro primo album che riproponeva il repertorio classico del gospel a cappella, ebbene fecero centro e anche se pubblicato questo album da un'etichetta indipendente spopolò in tutto il mondo. Beh, hanno vinto 10 Grammy Awards. No, tutto, hanno vinto tutto. Non per dire. Erano giovanissimi, dopo la pubblicazione di quell'album tutti hanno richiesto la partecipazione nei loro dischi dei Take Six, a partire da Quincy Jones, che naturalmente da grandissimo producer e attentissimo musicista non poteva lasciarsi sfuggire occasione di coinvolgerli. Beh, infatti hanno lavorato con i più grandi, con Stevie Wonder, con Queen Latifah, Ray Charles, Joe Sam, Al Jarreau, praticamente con tutti, anche con Whitney Houston. E fra le esperienze fatte da Take Six c'è anche quella di aver realizzato, sempre con Marcus Miller, questa meravigliosa versione di Don't Give Up di Peter Gabriel. Soundcheck, il suono della musica. Eh sì, lo abbiamo detto, Lean on Me fa parte integrante del repertorio contemporaneo del gospel, una composizione scritta da Bill Withers che faceva il meccanico per i Marines e contemporaneamente suonava la chitarra e scriveva canzoni, spedì alcuni provini a un'etichetta indipendente, poi la storia la conosciamo. Fatto sta che di lì a poco, pochi mesi, un anno dopo la pubblicazione proprio del suo primo album, si è ritrovato a suonare dal vivo alla Carnegie Hall, quindi il teatro più importante del mondo, alla Carnegie Hall, uno dei teatri più importanti del mondo, ma lì a New York è una vera e propria istituzione, cioè quando suoni alla Carnegie Hall è soltanto perché sei un musicista arrivato, un artista affermato, e fu molto emozionante. Esiste anche una documentazione discografica di questo concerto, perché in quel periodo gli Stati Uniti erano in guerra in Vietnam e quindi la sala era gremita, c'era un sold out spaventoso con i genitori dei Marines in guerra, e Bill Withers riuscì a portare il sorriso, e quindi fu un concerto molto coinvolgente. Bill Withers protagonista con Lean on Me in questa puntata del Soundcheck dedicata al gospel, e il passaggio è automatico e naturale da Bill Withers a Anthony Hamilton, che è un suo grande fan, ma anche vocalmente si rifà e ricorda moltissimo il grande maestro. Anthony Hamilton che si forma in una chiesa gospel, perché dall'età di 10 anni entra nel coro gospel della sua città di Charlotte, da lì però poi si nota appunto che è molto bravo, ha una grande vocalità, e quindi viene incoraggiato da un suo amico a partire per New York, a spostarsi a New York, e da lì inizia il suo percorso verso il successo. Inizia il tour con D'Angelo, facendo certo il corista di D'Angelo. Vuoi sapere i coristi in quel periodo di D'Angelo? Anthony Hamilton e Angie Stone, che era anche la fidanzatina. Mi sa che hanno anche avuto un figlio insieme. Questo non lo so. E fatelo dire allora dai tuoi amici. Allora direi di andare a Anthony Hamilton, che però non ha dimenticato le sue origini gospel, e ancora oggi quando pubblica i suoi dischi ultimamente, no, che ha pubblicato questo album nel periodo di Natale, c'è un pezzo intitolato Amen e così via. Ma ascoltiamo Pass Me Over, questo brano è molto coinvolgente ed emozionante. Another day, chance to make another chance. I'll meet you on the other side. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Lo abbiamo detto, la scuola del gospel si risente delle composizioni dei musicisti contemporanei. Questa è una composizione di diversi anni fa intitolata Freedom is a Voice, e la voce è quella di un campione di vocalità come Bobby McFerrin, una composizione scritta nel periodo fusion, infatti insieme al leader di Yellow Jackets, il pianista Russell Ferrante. Che meraviglia, questo brano mi è sempre piaciuto, continuo ad ascoltarlo e a emozionarmi ogni volta, proprio nella forma, negli arrangiamenti, è un brano solare. Bobby McFerrin qui era in grandissima forma come sempre, e praticamente Bobby McFerrin è in forma da 50 anni, come fa? È nato in forma. È nato vocalmente in forma, chissà, forse i Take Six gli hanno dato dei vocalizzi da fare, come alla lata di tromba, no? Tu che sei tutto. Allora, quanto è importante quindi la scuola del gospel per i musicisti contemporanei? Beh, importantissima, anche guardando i testi, semplicemente guardando i testi ritroviamo tutta la storia degli afroamericani, anche la loro lotta per i diritti civili. Infatti spesso il gospel si è trasformato in un megafono per la voce degli afroamericani, soprattutto nel periodo in cui il razzismo era molto più accentuato, e anche oggi, visti i problemi che si hanno avuti con la polizia negli ultimi 5-6 anni, tutti gli omicidi dei ragazzi afroamericani, c'è stato un ritorno al gospel anche per questo motivo, anche per un motivo sociale, per esprimere il problema proprio vero e proprio di questi omicidi. Ed è qualcosa che avveniva, si vede anche in una scena del film Selma, quando Martin Luther King chiama Mahalia Jackson, mentre però in quel caso lei era molto precisa nel rimanere in contesti puramente religiosi. Oggi nelle tematiche di questi brani si applicano appunto temi sociali e appartenenti alla comunità, anche chi non frequenta le chiese gospel, nel caso per esempio di Amin Salim, nostro amico, lui non credo che vada a messa la domenica, è troppo impegnato a girare per il mondo. È vero. Però si riconoscono comunque in questa tradizione, quindi se vogliamo ritorniamo al discorso della scuola elementare che faceva prima Francesco, ovvero c'è qualcosa che è insito nel DNA di questi musicisti, si devono misurare con questa musica, con queste strutture, con queste tematiche. E viene fuori anche dal nuovo album di Amin Salim, meraviglioso musicista, contrabbassista, bassista elettrico, da anni impegnato in giro per il mondo con il quintetto di Roy Hargrove, ma devoto al funk, al groove. Infatti il nuovo album si intitola The Groove Lab. Amin Salim con la voce di Ramona Dunlop in Don't Walk Away. E questo anche è un brano perfetto, realizzato proprio su una struttura armonica gospel. Soundcheck, il suono della musica. Da un album live, album capolavoro per il soul jazz, quello di Julian Conobal Adderley con una super band nel 1969 per la Operation Bread Basket, in un concerto con l'incasso devoluto in beneficenza a questa organizzazione per i bambini, quindi Operation Bread Basket, operazione paniere. Julian Conobal Adderley con il suo contralto, Nat Adderley alla tromba e al Rhodes Fender c'era Joe Zawinul, che è anche il compositore di questo brano che poi col tempo diventò uno dei masterpiece del soul jazz, del funk jazz, ma anche del gospel, brano intitolato Mercy, Mercy, Mercy. E qui il musicista, l'avrete ascoltato all'inizio della esecuzione, diventa l'MC, quindi diventa il predicatore, racconta il significato di Mercy, Mercy, Mercy e lo presenta naturalmente ricordando che il compositore era questo giovane musicista austriaco-americano bianco chiamato Joe Zawinul, e infatti iniziò la sua carriera il leader The Weather Report proprio con Julian Conobal Adderley. Questo è il Soundcheck Radio 24, sta per terminare questa puntata dedicata al gospel. Abbiamo fatto il possibile per raccontare un po' le varie sfaccettature del gospel contemporaneo, ma credo che ritorneremo su questo sound e su queste tematiche. Sì, poi un'altra cosa che ho notato, tu citavi prima appunto la raccolta dei fondi fatta da Cannonball Adderley, che praticamente penso quasi il 100% dei musicisti che fanno gospel comunque poi pensano anche alla comunità, nel senso sono molto attivi nel sociale, sono sempre attivi nella raccolta di fondi, nel cercare un modo per aiutare sempre i più deboli. E sono attivi anche a chiedere alle persone che assistono alle messe, ti danno la busta prima di entrare, sì, dove tu devi mettere l'offerta, e ti guardano, sì, anche un po' storto, perché fuori devi mettere l'importo dell'offerta, quindi non è anonima del tutto. Sì, questa è una cosa che viene anche un po' dal blues, dal mondo del blues, perché nei blues club i musicisti non vengono pagati, di solito una volta succedeva questo, no? Quando erano ancora fumosi i club, e alla fine di solito il cantante, perché non sono gli gli strumenti, sull'ultimo brano scendeva in platea con un bowl, ovvero un contenitore, no, tipo la coppa quella per le insalate, no? The bowl. E se vi è piaciuto il concerto, cantavano offrite. Put your money in the bowl, ecco. Cioè metti i tuoi soldi nel bowl, perché quello poi diventava il fee, il, come dire, il compenso per i musicisti. E questo, quindi l'offerta arriva anche nella chiesa. Ma anche le chiese più piccole hanno CD di loro produzione, merchandising, sono molto organizzati, devo dire. Allora, chiudiamo questo appuntamento del Soundcheck con un altro campione di musica, purtroppo anche lui scomparso, George Duke, che vedi, poi tutto si è lega. È un link incredibile, perché quando andò via Joe Zawinul dal quintetto di Julian Conobal Adderley, arrivò George Duke, che aveva già fatto le sue esperienze con Frank Zappa o stava per fare anche quel tipo di attività. George Duke, musicista molto preparato ma anche solare e divertente, e qui dal vivo con una super band chiude il soundcheck di Radio 24 con una sua composizione originale intitolata The Black Messiah. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per l'attenzione e vi ricordiamo che torniamo qui dal Groovemaster Studio domani alle 19:15 su Radio 24. God bless you. Soundcheck, il suono della musica.